punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Lusi in cella con i voti del PD. L'ex tesoriere della Margherita Rebibbia avverte entrando in carcere: ho molto da dire ai PM. Cari amici, cari ascoltatori di Radio 24, un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Valeria Bernardi in regia. Anche la decisione del Parlamento, dunque, che ha dato il via libera all'arresto immediatamente trasformatosi appunto in carcere per il tesoriere, l'ex tesoriere della Margherita, è una delle notizie di questa settimana. Certo, c'è da chiedersi come mai Lusi sì, Belsito no, ma tant'è. Lusi in carcere, come 18 anni fa toccò a Severino Citaristi, lo storico custode dei danari DC. Mercoledì al Senato c'era attesa per vedere come avrebbe votato Rutelli, all'epoca dei fatti contestati, leader della Margherita. Rutelli ha deciso di non esserci, ha scritto che l'ha fatto perché non riteneva opportuno votare in quanto rappresentante della parte offesa. Io non ho capito fino in fondo questa posizione: se è la parte offesa, perché non votare, quando il Paese chiede anche chiarezza alla politica? Forse sarebbe il caso di assumersi le proprie responsabilità in un senso oppure nell'altro, legittimamente. Lusi comunque l'ha detto, ve l'ho anticipato: contesto l'assunto che nessuno dei dirigenti abbia saputo alcunché sulle modalità gestionali dei fondi, che invece sono state effettuate per comune assenso. Insomma, una discreta dose di veleni anche distillati in Parlamento, mentre altri lambiscono il colle. Si sono riempite pagine di alcuni quotidiani con conversazioni telefoniche intercettate in ordine ad indagini in corso sugli anni della più sanguinosa strage di mafia, gli anni 92-93, e se ne sono date interpretazioni arbitrarie e tendenziose, talvolta versioni persino manipolate. Questo è il capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Dunque, la vicenda è quella appunto che coinvolge da una parte l'ex ministro degli interni Nicola Mancino, indagato a sua volta per falsa testimonianza dalla procura di Palermo per quel che riguarda appunto la trattativa tra Stato e mafia. La politica, che è rimesta anche nel torbido mentre continua a mancare la sostanza della risposta alla richiesta di autoriforma. 20 giugno, mercoledì, un momento di grande agitazione sul fronte della riduzione del numero dei parlamentari. Si vota, non si vota. Alla fine 630, da 630 a 508, il punto attualmente raggiunto in un primo passaggio di quello che è un percorso anche ancora molto lungo, visto la natura di legge costituzionale. Insomma, visti i tempi e gli atteggiamenti del palazzo, la sensazione è che nella migliore delle ipotesi continueremo ad avere una Camera che da sola va ben oltre i 500 deputati. Continuo a ricordarlo, sono sempre 150 in più di quelli che servono, per esempio, a governare gli Stati Uniti. La politica, dunque, come sempre, vuol dire Europa. Europa unita nelle difficoltà sul fronte internazionale. E da qui ripartiamo tra qualche momento. Adesso sentiamo insieme come vanno le cose sulle strade italiane. Punto e a capo. Noi siamo molto lieti quando i 20 del G20 si occupano dell'Eurozona, ma le technicalities, per quanto importanti, amiamo coltivarle al nostro interno. C'è una sorta di Monty Style anche quando magari si invita a farsi un po' gli affari vostri, in questo caso il messaggio al G20, che arriva in un momento in cui su vari fronti, insomma, l'attività dello scaricabarile è piuttosto popolare. Questa è la fase in cui è la sponda americana che lamenta l'inazione europea, lo fa ai vertici internazionali. Il G20 messicano, lo Scavos, si è messo al lavoro anche su questi temi all'indomani di quello che era il voto greco di domenica scorsa, e ha visto i leader americani e non solo pressare sulle iniziative europee per la crescita, cosa che, come abbiamo sentito, ha prodotto anche qualche reazione. Adesso è l'America, insomma, che dice l'Europa è la responsabile della mancata ripresa, dopo che per molto tempo, a dire la verità, abbiamo ascoltato l'Europa dire l'America è la causa del disastro finanziario del 2008. Intanto, ieri a Roma, il vertice tra i quattro big dell'Eurozona, Francia, Germania, Spagna e Italia, rappresentati ai massimi livelli, François Hollande, Angela Merkel, Mariano Rajoy e Mario Monti. Ecco gli approfondimenti, li avete sentiti nel giornale radio già a metà giornata, all'annuncio del lavoro di un pacchetto per la crescita che, come ha detto lo stesso Monti, desideriamo sia rilevante nell'ordine dell'1% del PIL europeo, cioè 130 miliardi di euro. Ecco, sull'euro vi faccio sentire anche un'altra voce della settimana, entrata e uscita dalle prime pagine, quella dell'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che parla appunto di euro. Sentiamo. Questa non è una bestemmia, ci sarà scandalo. Che cosa può succedere se si ritorna a una propria moneta da parte della Spagna, da parte dell'Italia, magari da parte della Grecia? Che cosa può succedere? L'abbiamo affrontato settimana scorsa, abbiamo esplorato anche una serie di ipotesi. Berlusconi quindi sottolinea questa eventualità, non è l'unico, anzi sono in molti in Europa, a seconda un po' dei momenti e delle difficoltà a ipotizzare questa via d'uscita, questa sorta di scivolo a effetto immediato e magari poi sul lungo orizzonte invece ampiamente incerto. Di sicuro Berlusconi in questi giorni torna a parlare e parla della cancelliera tedesca Angela Merkel, con cui non ha mai coltivato diciamo rapporti di qualità. Dice: sta sbagliando tutto e le sue politiche ci porteranno in una spirale di recessione sempre peggiore. Qui a Radio 24 abbiamo avuto ospite Renato Brunetta, quindi ex ministro di Berlusconi, che sviluppa il concetto. Sentiamolo. Io dico solo che Monti è presidente del Consiglio per risolvere i problemi economici e per, tra virgolette, salvare l'Italia. E l'Italia si salva in Europa e si salva con una diversa Europa, cioè con un'Europa che sia generosa, solidale, che non sia egoista come l'ha voluta la Merkel. Bene, o il presidente Monti, che ha una maggioranza straordinaria in Parlamento, con questa forza di questo grande paese, fondatore dell'Unione Europea, 60 milioni di abitanti, il terzo paese in Europa, avrà la forza quasi anche di ribaltare il tavolo di fronte a Angela Merkel. Se Monti avrà questa forza, avrà non solo il nostro appoggio, ma avrà il nostro applauso. Ma sì. Se Monti sarà timido, sarà, come dire, legato troppo ai voleri della Germania, Monti non avrà portato a termine il suo compito, quindi si sarà dimostrato inadeguato e quindi bisogna trovare altre formule. Quindi andrà a casa, cioè per quel che riguarda lei dovrebbe andare a casa. Ma questa si chiama, è la politica bambola, direbbe Humphrey Bogart, cioè un presidente del Consiglio rimane Presidente del Consiglio finché è in grado di svolgere il suo ruolo. Monti è un Presidente del Consiglio sui generis, straordinario per fare cose straordinarie. Se Monti si riduce a fare cose banali o a non fare, non si vede perché dovremmo continuare ad avvalerci della sua preziosa opera. Allora, nel ringraziarla, visto che è uscita l'anima del professore, mi dia un voto a Monti, finora, un voto da 0 a 10, non in trentesimi, da 0 a 10. Tra il 5 e il 6. Punto e a capo. Tra il 5 e il 6, dice Renato Brunetta, in tempo di pagelle, di maturità, insomma, si danno voti anche nell'ambito del mondo della politica, ma torneremo sulla scuola tra un momento. Adesso invece parliamo di esodati e di salvaguardati. Il nostro lessico si arricchisce continuamente. Certo, la questione può far sorridere, ma invece è molto seria, soprattutto per chi si trova in quel pessimo limbo che lo vede, diciamo, tagliato fuori dal lavoro e dalla pensione. Una questione appunto delicata, con una pressione per approvare un decreto legge, un disegno di legge sul lavoro entro il 28 giugno. La posizione del governo espressa a metà settimana dal ministro del lavoro Elsa Fornero. Con riguardo a questa platea va da subito precisato che non è possibile, attraverso i dati a disposizione del Ministero del Lavoro e dell'INPS, pervenire a un'esatta quantificazione, né soprattutto alla scansione temporale delle uscite. Questa nuova platea di lavoratori da salvaguardare è quantificabile con il margine di errore che le stime necessariamente comportano in circa 55.000 soggetti, come specificato nel seguito, ossia 40.000 lavoratori in mobilità ordinaria a seguito di accordi sindacali stipulati entro il 31 dicembre e con data di licenziamento successiva al 4 dicembre. Di questi potrebbero rientrare nello status di salvaguardato entro il periodo coloro che maturano i requisiti per la pensione entro la fine del periodo di mobilità, in coerenza con il precedente decreto. A giugno l'indice del clima di fiducia dei consumatori segna un nuovo calo, scende all'85.3 dall'86.5 di maggio, lo rileva l'Istat, aggiungendo che si tratta del livello più basso da gennaio del 1996, ovvero dall'inizio delle serie storiche. Bollette, consumi e rincari. Essere più verdi non significa purtroppo necessariamente risparmiare, ma grazie agli sforzi fatti in questa direzione nel nostro paese, qualche buona notizia potrebbe arrivare in autunno. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, ospite di Deborah Rosciani a Focus Economia. Sono i prezzi del petrolio degli ultimi mesi, degli ultimi 9 mesi, che vanno a determinare poi le quotazioni del prezzo del gas che consumiamo nelle case e poi anche il costo del gas nelle centrali termoelettriche, che è la principale componente della tariffa finale dell'elettricità, perciò c'è questa tendenza al rialzo. Sull'elettricità c'è anche l'aggravante più complicata che riguarda le rinnovabili, che sta arrivando una quantità di fotovoltaico straordinaria, non a caso siamo stati il primo paese al mondo, che ha dei costi, sono pulite, fanno green economy, ma sono un po' care. Sono care, soprattutto i costi vengono spalmati su tutta la platea dei consumatori, meccanismo che qualcuno non comprende, ma praticamente siamo noi stessi che finanziamo queste novità sul fronte energetico, Presidente, così? Esatto, siamo noi, i consumatori tutti, consumiamo 300 miliardi di kilowattora ogni anno più o meno, purtroppo i consumi stanno crollando perché il paese si va deindustrializzando, però produciamo circa 10-15 miliardi di kilowattora, perciò 15 su 300 da rinnovabili, in particolare da questo fotovoltaico, che ha costi molto alti, pertanto va finanziato. Nessuno ci crederà, però una buona notizia c'è, perché Nomisma, in 10 secondi, Presidente, da ottobre prevedete delle riduzioni, sì, giusto? Perché il prezzo del petrolio è crollato in queste ultime settimane, ci sono le super offerte sulla benzina, ci sono i prezzi che calano anche durante la settimana e ci sono le medie che cominciano a scendere per la prossima rilevazione successiva, quella di luglio, che sarà il 1 ottobre, lì dovremo avere finalmente le bollette in casa. Non vediamo l'ora di sentirla a settembre. Punto e a capo. Abbiamo aperto nei titoli d'apertura, vi ho parlato appunto della decisione che riguarda il tesoriere, l'ex tesoriere della Margherita Lusi, dunque Lusi in cella con i voti del PD, come è stato poi titolato da molte testate. Lui ha detto: avrò molto da dire ai PM, come vi ho anche raccontato. Rutelli, all'epoca dei fatti contestati, il leader della Margherita, ha deciso di non esserci. Chi ha invece preso una posizione diversa è Follini, che lo sentiamo, Marco Follini, che sentiamo in questo breve frammento. Il voto su Lusi, dal mio punto di vista, era un voto obbligato. Noi siamo interpellati da un magistrato che chiede l'autorizzazione all'arresto e dobbiamo decidere sì o no, non possiamo scantonare, non possiamo sfuggire a questa domanda. Dopodiché una classe politica degna del nome trova la forza e le risorse morali per cambiare tutto quello che c'è da cambiare sulle regole, le regole di finanziamento della politica, le regole di rappresentanza dell'elettorato. Se l'Usi sia un capro espiatorio o no, lo dimostrerà il seguito di questa discussione tutta politica. Una discussione tutta politica, e a proposito di sospetti, di veleni, di accuse, vi riporto con un servizio curato da Raffaella Calandra su questa questione, su questa vicenda che appunto dal Fatto Quotidiano al Colle è rimbalzato in questi giorni e che naturalmente lambisce il Quirinale. Il servizio. Le più alte istituzioni del paese e il ricatto delle bombe di mafia, il Viminale di allora, il Quirinale di oggi e una stagione che 20 anni dopo fa ancora paura. In un clima di sospetti e veleni nel bel mezzo dello scontro intorno alle telefonate tra l'ex ministro dell'interno Mancino e il consigliere del Colle D'Ambrosio, è il guardasigilli a tracciare la rotta. Sulla trattativa Stato-mafia è doveroso, dice, fare piena verità ma senza strumentalizzazioni. Nessuno sconto dunque, ma anche nessun cedimento a bagar politiche su una vicenda tanto drammatica in cui la bussola resta solo la legge. La legge che fa dire al ministro della giustizia che non ci saranno ispezioni sulle procure che indagano sulla trattativa perché non ci furono violazioni, così come principi di assoluto rigore, sottolinea la Severino, hanno mosso la Cassazione che, sollecitata dal Quirinale, convocò anche il procuratore nazionale antimafia citato da Mancino e D'Ambrosio. E mentre i partiti si dividono tra chi chiede una commissione su quelle telefonate e chi respinge ogni illazione su Napolitano, il procuratore Grasso una cosa dice subito, arrivando al Festival Trame: chi pensava di strumentalizzarmi si sbagliava, togliere un'indagine ai PM si fa se ci sono gli estremi. Ancora una volta la legge come timone, la stessa che non deve far dimenticare come il punto resti la ricostruzione di quei giorni in cui lo Stato trattò con la mafia, e con questa lente bisogna leggere anche i nuovi atti della Procura di Palermo, come le intercettazioni sui rapporti tra il generale Mori e il senatore Dell'Utri o le ipotesi che a tradire Borsellino sia stato un ex dell'arma a lui vicino. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lamezia. Una vicenda che sicuramente continuerà nel corso della prossima settimana. Noi adesso ci fermiamo un momento, poi ripartiamo dall'attualità, attualità italiana, ancora parecchi elementi, parecchie storie da ricordare in questa settimana, in questa settimana di giugno. Torniamo subito. Punto e a capo. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Valeria Bernardi in regia, e come vi ho anticipato, insomma, proseguiamo su un percorso che ci tiene in Italia. Abbiamo parlato, affrontando anche diciamo i grandi temi della politica della settimana, quel macro grande argomento che riguarda i costi della politica, gli interventi, il numero complessivo, ma anche i benefici della politica che rendono così appetibile il mestiere della politica. Questa settimana abbiamo avuto tra gli ospiti Alessandro Milano, 24 Mattino, ha avuto il governatore della Sardegna, Ugo Cappellacci, che dice: secondo me dovrebbe esserci una riduzione di almeno il 30% dello stipendio. Il tutto sull'onda di una polemica che riguarda appunto le indennità dei consiglieri sardi. Ma sentiamoli. Il consigliere regionale sardo prima del referendum prendeva, leggevo, 10.307 euro, poteva arrivare con l'indennità. Adesso, con i nuovi parametri che il consiglio regionale deve riscrivere e l'ufficio di presidenza riscrivere dopo che il referendum ha detto quei calcoli non si possono più fare, quanto guadagnerà? Quanto dovrebbe guadagnare secondo lei? Meno intanto? Sicuramente meno. Secondo me deve esserci una riduzione di almeno il 30%. Almeno il 30%. Tenga conto però, e questo bisogna dirlo a onor del vero anche per il Consiglio regionale della Sardegna, che noi abbiamo fatto, il Consiglio ha fatto in questi ultimi mesi, tagli come non ha fatto nessun'altra regione. Le cito alcune situazioni. Per esempio, è stato eliminato il vitalizio, il Consiglio regionale della Sardegna lo ha già eliminato. Sì. C'era stata già una riduzione del 20% sulle indennità, e anche questo era un segnale importante. Sono stati cancellati benefit quali biglietti aerei, cose di questo genere. Il numero dei consiglieri è passato da 80 a 60. Il sottoscritto, presidente della giunta, ha rinunciato alla sua indennità. Ma è vero che lei prende un euro simbolico? E di che? Allora, siccome non era possibile, anche questa è una struttura che chiediamo di modificare, sì. Non era tecnicamente per legge possibile rinunciare all'indennità, perché è una componente irrinunciabile. Ehi. Allora l'ha dovuto ridurre a un euro per ottenere lo stesso risultato. E di che vive lei? Io non lo so, cioè che fa un altro lavoro, perché come fa a vivere con un euro? Allora, io nella mia vita ho fatto il professionista, l'ho fatto con soddisfazione e mi posso permettere anche questo. Comunque, questo lo voglio chiarire perché non ci siano dubbi, io ho rinunciato a una componente che è quella dell'indennità di presidente. Parliamo d'altro, parliamo di Fiat, condannata a Pomigliano, deve assumerne 145, o meglio, non è che è stata condannata a Pomigliano la... Le parole a volte, la cadenza inganna, quindi la Fiat condannata dal Tribunale di Roma, che condanna l'azienda torinese per discriminazione contro la Fiat di Pomigliano. Ovviamente soddisfatto Maurizio Landini, lo sentiamo in un breve passaggio. Noi ci rivolgiamo direttamente al governo, al primo ministro, al Parlamento e anche alle forze politiche, perché ormai nessuno può avere più degli altri. Di fronte a una situazione di questa natura è compito anche del governo e delle forze politiche garantire in tutti gli stabilimenti della Fiat le libertà e i diritti sindacali. E non è più tollerabile che invece ci sia un silenzio o che si tenti di non parlare di quello che sta avvenendo. Proprio perché il primo ministro, il governo, il Parlamento, le forze politiche hanno come compito quello di garantire l'applicazione della Costituzione nel nostro Paese ad ogni livello. Non conosco le motivazioni della sentenza, ma è qualcosa di cui tenere conto, così il ministro dello sviluppo Corrado Passera, che appunto ha commentato in questo modo la decisione del Tribunale di Roma. Punto e a capo. E noi cambiamo decisamente pagina, ambiente, situazione, ci spostiamo a Rio de Janeiro, almeno idealmente, e parliamo invece per qualche minuto di quanto accaduto nell'incontro Rio più 20. Ormai gli appuntamenti, i grandi appuntamenti sull'ambiente sono quasi condannati alla delusione. Ci si aspetta sempre molto, chissà che cosa, a volte ci si aspetta davvero qualcosa di impalpabile, insomma quel mondo ideale vagheggiato in fondo da tutti per quel mondo verde, insomma, che è fatto poi di complessità, di tasselli, di passi. Di certo chi non torna deluso e lo racconta è Corrado Clini, quindi il ministro dell'ambiente, che viene intervistato da Marco Magrini del Sole 24 Ore. Quello che potevamo aspettarci da questo vertice è stato ottenuto, perché abbiamo un documento finale che identifica la green economy come quadro di riferimento per la crescita economica del futuro, identifica alcuni obiettivi per lo sviluppo sostenibile che sono comuni a tutti i paesi. E questa è una novità rispetto al passato, perché nel passato invece, non solo al vertice di Rio del 92, ma per esempio anche all'ultimo fallito di Copenaghen sul clima, gli obiettivi erano soprattutto riferiti ai paesi sviluppati, mentre sostanzialmente non c'erano previsioni di impegni e di obiettivi per gli altri paesi. Si ha un po' l'impressione che i paesi emergenti, mi riferisco in particolar modo a Cina, India e Brasile, non soltanto sono gli attuali protagonisti della crescita economica planetaria, ma stanno anche assumendo un ruolo di leadership. Assolutamente sì, sono questi i paesi che oggi danno il ritmo

e al disco del sogno eretico e ai concerti del sogno eretico, a sostegno del sogno eretico, ho voluto dare alle stampe esecuzione pubblica, che già nel nome è una provocazione, perché l'esecuzione pubblica è appunto quella che spettava gli eretici quando, insomma, non erano graditi al Vaticano e venivano bruciati in pubblica piazza, e invertendo le parole, facendo diventare una pubblica esecuzione, entriamo invece nel mondo della musica, e questa è praticamente un legame molto forte tra l'eresia e la canzone. Inoltre, all'interno del DVD ci sono anche tutti i video, vabbè, c'è anche il CD audio, eccetera, eccetera. La promozione finisce qui ed inizia un altro momento, perché vorrei aggiungere una postilla: i concerti del sogno eretico, che rinizieranno a fine di giugno e finiranno definitivamente con la mia estinzione a fine di agosto, in realtà non c'entrano una mazza con quello che vedrete nei DVD. Se no poi uno pensa, vabbè, tanto l'ho visto nel video registrato nel DVD recorder, non vado a vedere i concerti. No, il concerto è un'altra scaletta, altre gag teatrali, altre follie. E infine un frammento di Europei di calcio al netto dell'attualità che avete sentito questa mattina e sentirete nei GR. Questa settimana ci portiamo a casa la bella prestazione dell'Italia. Allora, in conclusione, Gigi Garanzini, all'indomani della vittoria azzurra. L'Italia finora è andata in discesa, perché dalla Spagna è scesa un po' verso la Croazia ed è scesa ancora ieri sera verso la povera Irlanda, che tra l'altro è la squadra più scarsa mai vista agli europei, mi fa notare Franco. 9 gol subiti e uno solo fatto è il peggior record di una squadra agli europei, ex aequo con la Bulgaria di Euro 2004. Non si faccia diventare Balotelli un super attaccante, a noi manca proprio una punta per il contropiede, scrive Rosario da Napoli. Secondo me ieri sera ha giocato una signora partita di Natale, che è stato molto sfortunato su 2 o 3 girate al volo che ha tentato, e comunque ha dato profondità, è venuto incontro quando era ora, ha fatto da partner ideale per Cassano sui movimenti e sugli incroci, soprattutto quando l'Italia nella prima mezz'ora stentava. A parer mio, questo lo scettico Garanzini nei confronti dell'Italia, quanto abbiamo sentito, vedremo domani come andrà. E con questo noi abbiamo concluso, quindi da Gigi Donelli al microfono, da Valeria Bernardi in regia, un saluto. Naturalmente l'appuntamento con Punto a Capo, come sempre, sabato prossimo, poco dopo le 9, radio24.it per sentire e risentire questa, tutte le trasmissioni di Radio 24. Un buon fine settimana a tutti voi.